Una città con tante luci, automobili, quante emozioni, tutte apposta per noi. Un attico e un giardino, e da là tramonti e palpiti. Tutto questo io non te lo darò mai. Malgrado lui giri già con due macchine, e malgrado lei ti parli sempre di lui. Conosco un posto poco più in là, ci andiamo a piedi, dai. Vuoi mettere la tranquillità? Io posso darti due galline, un occhio, un asino attaccati ad un carro. Poi ti prometto un gran ballo e di portarti al Gran Sasso. Io posso darti due galline, un occhio, un asino attaccati ad un carro. Poi ti prometto un gran ballo e di portarti al Gran Sasso. Non farci caso però, quando lui scende dal Porsche e se ti bacia lo sai, non devi credergli mai. Quando ti dice sì, mio amor, io non ti lascerò mai. Sono tutte chiacchiere, chiacchiere, chiacchiere, chiacchiere. Chiacchiere o no, io ho bellezza da vendere. E invece lui, lui può comprarti uno yacht. Io sentivo in radio due giorni fa, quanti pirati in mare. Vuoi mettere la tranquillità? Io posso darti due galline, un occhio e un asino attaccati ad un carro. Poi ti prometto un gran ballo e di portarti al Gran Sasso. Io posso darti due galline, un occhio e un asino attaccati ad un carro. Poi ti prometto un gran ballo e di portarti al Gran Sasso. Da vendere, e invece lui, lui può comprarti uno Yorkshire. Io sentivo in radio due giorni fa, quanti pirati in mare. Vuoi mettere la tranquillità? Io posso darti due galline, un occhio e un asino attaccati ad un carro. Poi ti prometto un gran ballo e di portarti al Gran Sasso. Io posso darti due galline, un occhio e un asino attaccati ad un carro. Poi ti prometto un gran ballo e di portarti al Gran Sasso. Poi ti prometto un gran ballo e di portarti al Gran Sasso. Poi ti prometto un gran ballo e di portarti al Gran Sasso.